24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatta e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura la proposta di Bruxelles per una temporanea sospensione degli accordi di Schengen. Come chiesto da Francia e Italia, la Commissione europea apre infatti a possibili modifiche come quella di ripristinare i controlli alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali, ad esempio per impreviste e forti pressioni migratorie. La misura fa parte di una serie di proposte presentate ieri dalla commissaria europea Cecilia Malmström che saranno ora al vaglio degli Stati membri. In caso di situazioni critiche potrebbe rendersi necessario introdurre un meccanismo che consente il ritorno coordinato e temporaneo ai controlli in una o più sezioni dei confini interni europei. Il meccanismo si applicherebbe per un periodo di tempo limitato fino a quando altre misure di emergenza non vengano prese a livello europeo o nazionale. È in questo passaggio che la Commissione europea traduce in proposta concreta l'apertura sulla revisione delle regole di Schengen, già anticipata per lettera lo scorso 29 aprile al premier italiano Silvio Berlusconi e al presidente francese Nicolas Sarkozy. Più in generale, il pacchetto comunitario prova per l'ennesima volta a disegnare un quadro di gestione comune delle frontiere. Bruxelles preme pure per una politica europea dei rimpatri. Anche i dati presentati dalla Commissione sono interessanti. Gli extracomunitari in Italia costituiscono il 5% della popolazione, in linea con la media europea. L'Italia ha però uno dei più bassi tassi di rimpatrio effettivo dei clandestini. Solo uno su 10 lascia il nostro paese contro una media comunitaria al 40%. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, per affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina servono risposte rapide. Lo ha intervistato Andrea Viali. Purtroppo temo che quello che è successo fino ad oggi sia la punta di un iceberg. Noi rischiamo di avere, per come stanno le cose, per come stanno evolvendo le cose anche in Libia, avere un incremento preoccupante dei flussi migratori. Non è un caso che la Commissione europea proprio 3 settimane fa abbia deciso di incrementare gli aiuti economici su proposta della commissaria Georgieva per gli aiuti umanitari per le popolazioni in fuga dalla Libia. All'inizio si pensava che ci si potesse fermare a 40-60 mila persone e i dati forniti poi dalle organizzazioni umanitarie parlano di cifre superiori a 100 mila. Ecco perché quindi quello che è oggi succede oggi e è successo fino ad oggi, secondo me, può essere soltanto la punta di un iceberg e quindi con il miglioramento delle situazioni meteo potrebbero esserci il rischio di forti flussi migratori dal nord dell'Africa verso il sud dell'Europa e segnatamente verso l'Italia. Che risposte vi aspettate ora alle vostre proposte da parte degli Stati membri? Certamente ci attendiamo grande attenzione e molte risposte positive, anche perché l'Italia e la Francia, per esempio, che sono due paesi fondatori dell'Unione, due grandi paesi, due paesi che vivono sulla loro pelle il problema dell'immigrazione, si sono rivolti alla Commissione europea per avere risposte sul problema dell'immigrazione. E i contenuti della lettera italo-francese mi sembra che siano in perfetta sintonia con le decisioni adottate oggi dalla Commissione che verranno presentate agli Stati membri e poi ripeto al Parlamento europeo. E sono circa 650.000, stando alle ultime stime dell'Unione Europea, le persone che hanno lasciato la Libia per fuggire guerre e violenze, un dato che è stato reso noto in occasione della presentazione del documento della Commissione sulla politica comune per l'immigrazione. I fuggitivi si sono rifugiati soprattutto in Tunisia ed Egitto e molti sono già stati aiutati a tornare nei paesi di origine. Oltre 25.000 i migranti che hanno scelto l'Europa, in gran parte provenienti dalla Tunisia, sono sbarcati soprattutto in Italia, a Lampedusa e a Malta. E sulla crisi in Libia ieri in Italia sono passate le mozioni di opposizione e maggioranza. Un risultato scontato nell'aula della Camera, meno quello dello scenario internazionale. Passa la mozione PDL e Lega, con Bossi nessuna incomprensione, spiega il premier Silvio Berlusconi, l'asse è solido. Colpa della campagna elettorale che produce dialettiche tra i partiti, ma ancora una volta dimostriamo di essere solidi. Per Umberto Bossi la NATO dovrà tener conto del voto sul limite della missione. Esulta il ministro degli esteri Franco Frattini. La maggioranza è unita sulla sua risoluzione. L'opposizione è divisa con 3 diverse risoluzioni. Credo che il ruolo dell'Italia sia forse l'aspetto che a tutti dovrebbe premere di più per sottrarlo un po' a queste polemiche da campagna elettorale. La mozione di PDL e Lega passa con 309 sì, 294 no, 2 astenuti. Approvate anche quella del PD e del Terzo Polo perché la maggioranza si è astenuta, mentre è stata respinta quella dell'IDV totalmente contraria alle operazioni militari in Libia. Per il segretario PD Pierluigi Bersani quella di Montecitorio è stata una sceneggiata. Tutta questa discussione è servita e serve solo ad aggiustare le questioni internazionali fra Arcore e via Bellerio. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Montecitorio. Parliamo ora della morte di Osama Bin Laden, che se da una parte costituisce una buona notizia sul fronte della guerra al terrorismo, dall'altra rinnova le preoccupazioni per gli ostaggi di gruppi affiliati ad Al-Qaeda. L'allarme è arrivato da Parigi. A rilanciare l'allarme è stato oggi il ministro dell'interno francese Guehan. Bisogna sapere, dice, che tenuto conto della situazione in Libia, un certo numero di armi hanno lasciato quel territorio e sono finite nelle zone occupate da Al-Qaeda per il Maghreb islamico. È il gruppo che, precisa il ministro, ha in ostaggio 4 francesi. È il gruppo che, aggiungiamo, da febbraio ha in ostaggio anche l'italiana Maria Sandra Mariani, rapita il 2 febbraio durante un'escursione turistica in Algeria. Sulla sua sorte ben poche notizie sono di dominio pubblico. Il 18 febbraio la TV Al-Arabia ricevette e mandò in onda un messaggio della donna che in lingua francese assicurava di stare bene. La Maria Sandra Mariani. Poi più nulla di concreto. Lunedì scorso, proprio quando si diffondeva la notizia dell'uccisione di Bin Laden, l'agenzia France Presse batteva la notizia che un nuovo video, inviato dai rapitori, dimostrava che la Mariani era viva, ma il timore è che la morte di Bin Laden possa fermare i negoziati. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiusura negativa per le borse europee, spinta al ribasso da segnali giunti da oltreatlantico che rafforzano i timori su un indebolimento dell'economia. Francoforte ha perso l'1,69%, Londra l'1,62%, Parigi ha registrato un meno 1,31%, segno meno anche a Milano, a Piazza Affari, il FTSE MIB ha perso l'1,79%, il FTSE All Share l'1,68%. Chiusura in netto ribasso per le borse europee, schiacciate dai dati americani al di sotto delle attese. Il FTSE MIB ha accusato una flessione dell'1,79%. Sono andati giù i titoli delle banche, con Unicredit in ribasso di quasi il 3%. Male anche Fiat SPA, meno 2,1%, insieme al settore europeo dell'auto. Per contro, le Fiat Industrial hanno arginato le perdite allo 0,15%, beneficiando delle ipotesi del quotidiano La Repubblica, secondo le quali il numero uno, Sergio Marchionne, starebbe studiando la cessione della società. Società che tuttavia ha smentito. Telecom Italia ha arginato le perdite allo 0,69%, beneficiando ancora dell'effetto degli ottimi conti del primo trimestre annunciati la vigilia dalle controllate sudamericane TIM Brasil e Telecom Argentina. Non si sono salvate dalle vendite le azioni di Pirelli, meno 1,38%, nonostante i conti trimestrali superiori alle attese e la revisione al rialzo delle stime per fine anno. Parmalat ha chiuso invariata a 2,59 euro, livello quasi in linea con il prezzo dell'OPA lanciata da Lactalis a 2,6 euro. Nel corso della seduta però le azioni si sono spinte fino al top di 2,608 euro, a dimostrazione che il mercato scommette su un possibile rilancio da parte di Lactalis. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E riguardo la vicenda dell'OPA lanciata dai francesi di Lactalis su Parmalat, ieri il leader della Lega Nord Umberto Bossi ha commentato: sono preoccupato, i francesi hanno più soldi. Voltiamo pagina e parliamo adesso della comunità straniera più numerosa in Italia, quella dei rumeni, popolo virtuoso nonostante i pregiudizi. Per chi crede ancora che rumeno faccia il paio con rom, lavavetri dei semafori, deve una volta per tutte cancellare dalla testa questo pregiudizio. Quella dei rumeni è la comunità straniera più grande d'Italia, quasi 1 milione di persone secondo l'Istat, ma soprattutto quella che viene considerata la più affidabile dalle banche. Lo ha scoperto il broker online Mutui.it, analizzando i preventivi compilati sul proprio sito. Oltre l'11% di questi preventivi arriva da cittadini di nazionalità straniera e un mutuo su 3 viene chiesto da cittadini della Romania. Richieste che arrivano in prevalenza dal nord Italia e riguardano immobili di valore inferiore rispetto alla media. Alberto Genovese, amministratore delegato Mutui.it. Le pretese tendono a sfasarsi su immobili, su case con un valore un po' più basso, parliamo di 165.000 euro contro i 200.000 del valore dell'immobile tipico in Italia. E il bisogno di finanziamento è maggiore o minore rispetto alle famiglie italiane? Leggermente più alto, la richiesta è tipicamente di poco superiore all'80% del valore dell'immobile contro un 75% della media nazionale. L'immigrato che compra la sua prima casa in Italia chiede in media 132.000 euro e si impegna con la banca anche per 25 anni. Ma qual è invece la comunità straniera considerata finanziariamente meno affidabile? Ah, in generale alcuni paesi del Nord Africa. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Formula 1, la ex-or della famiglia Agnelli, proprietaria di Fiat e la News Corporation di Murdoch, hanno stretto alleanza nel tentativo di sfilare in una contesa che si preannuncia miliardaria il controllo della Formula 1 a Bernie Ecclestone, il quale però assicura: per il momento non vendo. E adesso il calcio con la Champions League. La qualificazione del Barcellona alla finale ha avuto un protagonista sopra tutti. Erika Vidal vuelve a un terreno del juego, se marcha un batallador, otro más, en este caso Carles Puyol, entrará Erika Vidal. Al Camp Nou è il 90esimo. La saga tra Barcellona e Real Madrid, almeno per quest'anno, è al capitolo finale. La storia di Erika Vidal, invece, ricomincia proprio da qui, dopo una parentesi, una sospensione, un vuoto durato 46 giorni. Tanto è passato infatti dall'intervento che il 31enne difensore del Barça e della nazionale francese ha subito per un tumore al fegato. Pep Guardiola, dalla panchina, l'aveva già in mente da tempo un finale del genere. L'1-1 maturato sotto il diluvio garantisce al Barcellona il biglietto per la finale di Wembley. E allora ecco la sostituzione che il popolo blaugrana aspetta da 46 giorni. Fuori il capitano Puyol, dentro proprio Abidal. Poi, al fischio finale, tutti in piedi ad applaudire Eric, mentre i compagni lo abbracciavano e lo lanciavano verso il cielo. «È stato il giorno più bello della mia vita», ha detto Abidal. Il Barcellona ora cercherà l'ennesima impresa a Wembley, ma Eric, in fondo, la sua partita più difficile l'ha già vinta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Conto la rovescia per il via del Giro d'Italia, la grande corsa a tappe del ciclismo europeo e mondiale. Grande favorito lo spagnolo Contador, ma anche gli italiani sono pronti a dare battaglia, come spiega l'ex campione del mondo Paolo Bettini al microfono di Dario Ricci. Ma io credo che il percorso c'è tutto, come del resto sempre. L'Italia offre grandi percorsi e gli organizzatori hanno saputo mettere insieme per i 150 anni un percorso tosto, difficile, spettacolare. Ci saranno tante tappe, non solo le ultime sulle Dolomiti, ma tante tappe in giro per l'Italia molto molto interessanti. La rosa dei favoriti, Alberto Contador è il numero uno, ma chi invece può strappargli questa maglia rosa che sembra quasi predestinata sulle sue spalle? Ma Contador attualmente è l'uomo delle grandi corse a tappe, lo ha dimostrato, si presenta sempre per vincere e lo fa, non è che lo promette e basta. Ce ne sono tanti, quest'anno soprattutto al Giro ci sono tanti pretendenti, ma fortunatamente ne abbiamo anche due di casa nostra che credo daranno filo da torcere a tutti gli altri. Parlo di Nibali e anche di Scarponi. Un po' più esperienza, perché ha qualche anno in più. Vincenzo si è dimostrato lo scorso anno competitivo su questo tipo di gare, facendo podio al Giro e vincendo la Vuelta, pertanto ci aspettiamo grande spettacolo anche da loro. E chiudiamo questa edizione con una curiosità sulla Première Dame. Carla Bruni, la First Lady francese, sarebbe incinta di due gemelli, lo scrive il settimanale parigino Voici, che anticipa la data del lieto evento per ottobre. L'ipotesi di un parto gemellare rafforzerebbe anche l'ipotesi sull'inseminazione artificiale della 43enne moglie di Sarkozy. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.